Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Certamente con la sola pensione di parlamentare non si possa campare bene, bene, poi per carità, non esageriamo, c'è chi vive con 1.000 euro al mese, per cui io posso vivere con 4, però effettivamente per chi ha 3 figli, di cui 2 che stanno fuori Palermo e bisogna camparli pagandogli la casa e quant'altro, posso garantire che con la pensione di parlamentare non si fa una bella vita. Insomma, avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, non si fa una bella vita con la pensione da parlamentare, quindi 4.000 euro al mese. Cerchiamo di avere comprensione per tutti. Questo era Gianfranco Miccichè, ex ministro, recente capolista alle europee per Forza Italia, non eletto, che non nasconde, insomma, che la sua candidatura alle europee serviva anche per mantenere i figli e per riuscire ad avere un introito economico un po' più dignitoso dal suo punto di vista dei 4.000 euro al mese. Allora io vi chiedo, siccome avete sentito di questo scandalo, ennesimo scandalo, di Mazzetti, di Tangenti, di Magna Magna, che riguarda Venezia, il MOSE, questo sistema per cercare di abbattere le acque alte nella laguna di Venezia, avete sentito, insomma, qui si parla addirittura di alcuni politici che hanno percepito uno stipendio di 1.000.000 euro all'anno per agevolare determinate cose. Quindi è possibile che effettivamente di fronte a 1.000.000 euro all'anno, 400.000 euro all'anno essere così compiacenti permettano poi, non so, per esempio a un esponente politico come Miccichè di dire che 4.000 euro al mese alla fine non ci si campa bene. Quindi può avere ragione lui? Vi lancio questo input questa sera attraverso i messaggi, potete rispondere gli sms al 349-238-6666 oppure sulla pagina Facebook come sempre di Effetto Nota. È possibile abbia ragione Miccichè che 4.000 euro al mese, insomma, siano un po' indecorose e non permettano di mantenersi, e per questo, non legato a Miccichè, ma a quello che è successo a Venezia, diciamo, si chiudano degli occhi, si entra in un giro di corruzione, perché bisogna, pur tenendo famiglia, mantenerla. Allora, intanto vi racconto come sempre le notizie del giorno, poi entreremo a mano negli argomenti, naturalmente anche in questo, la Tangentopoli veneta. Tangentopoli a Venezia, arresti eccellenti tra PD e Forza Italia per l'opera pubblica del MOSE. La procura parla di fondi neri per 25 milioni di euro. Arrestato il sindaco Orsone e a Galan milioni come fossero uno stipendio. Allarme di Confindustria, l'Italia scende all'ottavo posto nel manifatturiero, scavalcata dal Brasile. Perse in 12 anni 120.000 fabbriche. La Corte dei Conti boccia gli 80 euro. Sono un surrogato, dice, serve una riforma. Bruxelles, stasera il primo G7 di Renzi e Obama fa sapere all'Ucraina, siamo con voi. India, ancora efferatezze contro le donne, un'altra ragazza impiccata a un albero, una madre di 5 figli resiste a uno stupro e le sparano in testa. Benzina, sciopero il 18 giugno e per 3 giorni niente self service. Per il calcio, test con Lussemburgo questa sera per gli azzurri che domani volano in Brasile. E partiamo quindi da quella che già viene definita la Tangentopoli veneta, con le tangenti per il MOSE, dopo l'Expo e non solo l'Expo, quanti scandali ultimamente, ancora corruzione per la realizzazione di una grande opera, in questo caso per Venezia. L'inchiesta era in corso dal 2008 e nella terza fase è emerso il coinvolgimento dei politici. Tra imprenditori, politici e funzionari pubblici sono un centinaio i nuovi indagati nell'inchiesta sugli appalti per il MOSE. 35 le persone arrestate stamattina dalla Guardia di Finanza. Fra i nomi noti c'è quello del sindaco di Venezia, Orsoni, finito ai domiciliari con l'accusa di finanziamento illecito. Chiesto l'arresto anche per l'ex governatore veneto Galan, oggi deputato di Forza Italia e accusato di corruzione. Lui si dice innocente, ma secondo la procura dal 2005 al 2011 avrebbe ricevuto fondi illeciti per 1.000.000 euro all'anno dal presidente del consorzio Venezia Nuova, Mazzacurati, arrestato un anno fa. In manette sono finiti anche l'assessore regionale Chisso, sempre di Forza Italia, un generale della Guardia di Finanza in pensione e 2 ex presidenti del magistrato alle acque. Quello emerso dalle indagini sarebbe un sistema di tangenti pagate con fondi neri ottenuti attraverso false fatturazioni per un valore di circa 25 milioni di euro, un sistema per certi versi più collaudato di quello della Tangentopoli anni 90, commenta il procuratore aggiunto di Venezia Nordio. Gli elementi comuni sono una spartizione, direi quasi equivalente, tra le varie forze politiche di destra e di sinistra delle risorse. Gli elementi differenziali sono un sistema estremamente più sofisticato di creazione di fondi neri. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Larghe intese in manette, non ci vanno cauti i grillini sugli arresti del Mose. Il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni di Giancarlo Galan dalla Commissione Cultura della Camera e spera che la giunta per le autorizzazioni sia questa volta più veloce di quanto fu per Genovese. Michele Giarrusso. Gli ingredienti sono gli stessi. Abbiamo procedure emergenziali che servono per bypassare le norme di legge e puntualmente dietro c'è il banchetto e la spartizione degli appalti. In Forza Italia, il partito di Galan, invece prevale la cautela, così Giovanni Toti. Sono operazioni che in qualche modo incrinano la nostra credibilità di sistema paese in un momento già difficile, quindi spero che tutti si siano mossi con i piedi di piombo, con la dovuta attenzione. Più delicata la situazione nel PD, difende il sindaco di Venezia, il presidente dell'ANCI Piero Fassino. Giorgio Orsoni è una persona corretta, anche Pippo Civati spera nella sua innocenza, ma avverte. Chiarire che il nostro partito segue le sue regole statutarie, quindi che non ci siano conflitti di interessi, doppi incarichi, al di là del caso di Venezia che spero ovviamente si risolva positivamente, soprattutto per il sindaco. Nel pomeriggio interviene anche il governatore del Veneto, Luca Zaia. Benvenga, se c'è, benvenga, bene che si faccia pulizia, se fino in fondo, e che si sappia dove c'è la terra solida e dove c'è la palude. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E su questo, come dicevo, poi torneremo. Vedo una notizia di questi istanti che viene dalla Siria martoriata da 3 anni di guerra civile, di torture, di assassini, eccetera, di stragi. Bashar al-Assad, cioè il dittatore siriano, è stato rieletto con l'88,07% dei voti, lo ha annunciato il presidente del Parlamento di Damasco. Vi potete immaginare questo suffragio dell'88% in un paese che ormai è messo a ferro e fuoco, dove sono scesi in campo da tempo anche i jihadisti e non si sa più chi sono i buoni e i cattivi. Però proseguiamo con l'Italia. A fronte della corruzione che dilaga, a proposito appunto dell'ultimo scandalo, ci sono tantissime imprese sane però che hanno chiuso i battenti, e il presidente di Confindustria Squinzi è tornato a sollecitare oggi una svolta, aggiungendo che Renzi e la ministra Guidi si stanno muovendo nella direzione giusta. Il mondo avanza, l'Italia arretra e viene scavalcata anche dal Brasile. Nella graduatoria dei maggiori paesi produttori, infatti, il bel paese scivola all'ottava posizione. E questo perché mentre negli ultimi 12 anni la produzione manifatturiera mondiale cresceva di oltre il 36%, in Italia calava del 25%. Un dato in netta controtendenza, dunque, che si è tradotto nella chiusura di 120.000 fabbriche e nella perdita di 1.200.000 posti di lavoro. Un bollettino di guerra, lo ha definito il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, che ha radici antiche nei mali del nostro paese, ma questo non significa che le nostre industrie e i nostri imprenditori siano immobili e rassegnati. Non siamo vittima di un destino crudele e ineluttabile. Siamo noi che possiamo e dobbiamo costruire il nostro futuro. Occorre però un salto di mentalità, una svolta chiara e decisa, e mi pare che si stanno creando le condizioni per una tale svolta. Un attestato di fiducia dunque nei confronti del governo Renzi. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E intanto la Corte dei Conti torna a sollecitare dei correttivi sul fronte fiscale. Nel giorno in cui salta l'annunciato allargamento del bonus 80 euro alle famiglie monoreddito con figli, arriva un'altra bocciatura in tema di IRPEF ed è quella della Corte dei Conti. Nel rapporto 2014 sulla finanza pubblica, i giudici contabili scrivono che il bonus da 80 euro è un surrogato rispetto a una revisione complessiva dell'imposta e più in generale all'attuazione di un disegno razionale, equo e strutturale di riduzione e redistribuzione dell'onere tributario. I giudici evidenziano il livello di prelievo eccessivo e mal distribuito del fisco, con una pressione del 43,8%. Il presidente della Corte dei Conti, Raffaele Squetieri. Se noi interveniamo sul campo economico in tutti i settori dell'economia, per esempio delle partecipate, se interveniamo nella semplificazione di strutture ridondanti, che forse il nostro paese non si può più permettere, e parlo di grosse strutture a livello anche di rilevanza costituzionale, dei grossi risparmi si possono ancora fare. Ecco, per esempio una riforma del Senato avrebbe effetti anche importanti, oltre che sulla semplificazione delle procedure, anche proprio sui costi delle strutture. Intanto, come dicevamo, l'allargamento del bonus IRPEF di 80 euro alle famiglie monoreddito numerose deve aspettare di trovare posto nella prossima legge di stabilità. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è in corso a Bruxelles il G7. Renzi è arrivato da un po' lì a Bruxelles, il suo primo G7. Tra i temi centrali c'è certamente il caso Ucraina. Dopo sentiremo di cosa si stanno occupando i cosiddetti grandi della terra, tra i quali proprio per le recenti vicende dell'Ucraina è stata esclusa la Russia. Non c'è Putin in questa occasione. Restiamo all'estero con l'India, un nuovo scioccante episodio di violenza nello stato indiano dell'Uttar Pradesh. Vi ricordate, solo pochi giorni fa, due ragazzine violentate da un branco e poi impiccate. Adesso una ragazzina di 15 anni è stata uccisa e il suo cadavere è stato ritrovato appeso a un albero. E nello stato settentrionale del Meghalaya, una donna di 35 anni, sposata e madre di 5 figli, è stata uccisa da presunti militanti indipendentisti che le hanno sparato la testa con fucili automatici per aver resistito a un tentativo di stupro. Torniamo con la cronaca sulle notizie italiane. 4 anni di reclusione per i poliziotti che nel 2010 picchiarono Stefano Gugliotta, vittima di una vicenda davvero assurda. Manganellate, pugni, calci, in lontananza i rumori del post partita di Coppa Italia. Ma lui, Stefano Gugliotta, non era interessato agli scontri tra tifosi che stavano infuocando l'Olimpico. Quella sera del 5 maggio 2010 era uscito di casa con un amico per andare a una festa, quando 9 poliziotti lo avevano fermato e picchiato in via Pinturicchio, in una zona tranquilla e lontana dagli scontri. Oggi per loro arriva la sentenza di condanna a 4 anni e l'interdizione dei pubblici uffici, pene a cui si aggiungono 40.000 euro di risarcimento al giovane che sul volto porta ancora i segni dell'aggressione. Mi hanno massacrato, giustizia è fatta, ha detto il ragazzo presente in aula e con le lacrime agli occhi. Intorno a lui i genitori, ma anche Lucia Uva e Claudia Budroni, sorelle di altri ragazzi, morti dopo che sarebbero stati pestati dalla polizia. Antonella Ferrara, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si parla adesso di scioperi perché oggi è stata annunciata l'astensione dei benzinai. Distributori di benzina chiusi il 18 giugno e niente self-service dal 14 al 17. E questa l'agitazione proclamata dalle 3 sigle sindacali dei gestori per protestare contro i prezzi alti imposti dalle compagnie petrolifere in un contesto, spiegano, di indifferenza e sostanziale inerzia della politica e delle istituzioni. Nel dettaglio, dalle ore 7 del 14 giugno alle 19.30 del 17 vi sarà la chiusura delle vendite di self-service prepay negli orari di apertura degli impianti, mentre dalle 19.30 del 17 giugno alle 7 del 19 si svolgerà lo sciopero generale nazionale degli impianti di rete ordinaria. Dalle 22 del 17 giugno alle 22 del giorno successivo lo stop riguarderà anche le aree di servizio autostradali. Inoltre dalla mezzanotte del 21 giugno alla mezzanotte del 28 non sarà accettato alcun mezzo di pagamento elettronico e saranno sospese le campagne promozionali di marchio su tutta la rete ordinaria. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura direi di aggiornarci sul test che stanno conducendo gli azzurri, la nazionale, in vista della partenza di domani per il Brasile con il Lussemburgo. Carlo Genta, mi sembra che ci sia stato un gol. Ciao, esatto, Carlo. Ciao Roberta, ti sembra giusto? Non so se si dice, ma hai indovinato o hai visto bene? Ho visto bene, Italia mi sembra 1, giusto, sì. Italia 1, Lussemburgo 0, 27 minuti, ovviamente il punteggio conta relativamente. Conti invece vedere questa squadra a 10 giorni dall'esordio mondiale contro l'Inghilterra. È un'Italia, diciamo, sperimentale almeno nel modulo, Balotelli unica punta, ci sono 5 centrocampisti, c'è Verratti che è sorvegliato speciale di Prandelli e dell'Italia intera. Direi che l'Italia mi sembra una squadra in questo momento un po' imballata dalla preparazione, ma questo è del tutto normale. Ha trovato il gol dopo 8 minuti con una magia di Balotelli che ha messo la palla sulla testa di Marchisio, che ha segnato il gol dell'1-0. Ovviamente gli avversari sono il Lussemburgo, sono quello che sono, li abbiamo sempre battuti, non sono certo una superpotenza mondiale, però è un'Italia che sta in campo, è un'Italia da guardare nei dettagli, vedremo da qui alla fine. Imballata dagli allenamenti intendi dire che c'hanno l'acido lattico nei muscoli? Sì, praticamente è come una squadra di campionato alla fine della preparazione, quindi hanno fatto preparazione atletica, sappiamo la casetta e i lavori specifici sulla forza eccetera eccetera a Coverciano per più di 10 giorni e quindi fatalmente è una squadra che non ha tanta velocità nelle gambe. Non sono tanto elastici, molto veloci, sono un po' più irrigiditi. Comunque staremo brava a vedere. Grazie. Già questo 1-0, poi ci aggiorniamo dopo con Carlo Genta che guarderà intanto la partita. A più tardi. Ciao Carlo, a dopo. Tardi. Ciao Roberto. Adesso vedo velocemente i vostri messaggi. Prima della viabilità, dice un ascoltatore, per i politici corrotti la galera una volta accertata la responsabilità. E poi un altro ascoltatore, ascoltatrice, al 349-238-6666, scrive: un'anima e una coscienza, mi sembra doveroso indire una colletta pubblica nazionale onde giovare al disagio del povero Micicchè che ha dei figli da campare. Abbiamo sentito la frase inizialmente che diceva che la pensione da parlamentare da 4.000 euro, con questa pensione non si vive bene. Vedo gli altri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche sulla questione proprio della Tangentopoli Veneta, però ne parliamo dopo. Adesso intanto aggiorniamo chi viaggia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ed eccomi di nuovo da voi, dopo pochissimo, per ricordarvi quali sono le notizie principali di oggi, visto che c'è stata questa pausa, che qualcuno accende un po' più tardi, qualcuno le vuole risentire, se ne è perso qualcuno. Poi passeremo man mano ai vari temi con diversi ospiti. Vi ricordo che se volete partecipare c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, sulla quale potete scrivere costantemente commenti dalla mattina alla sera, 24 ore su 24. Poi, quando sono in diretta con voi, c'è il numero di SMS 349-238-6666. Vi ricordo però le notizie. Tangentopoli per il Mose, a Venezia 35 arresti, terremoto nella città, domiciliari per il sindaco Orsoni, chieste le manette per Galan. Allarme della Corte dei Conti, gli italiani sono sommersi dal fisco, salta il bonus per le famiglie, intanto la Corte dei Conti dice gli 80 euro sono solo un surrogato delle riforme. Il G7, il primo di Renzi, e lì c'è anche Obama che dice noi siamo con l'Ucraina, la libertà in Europa non è scontata. È un bollettino di guerra quello di Confindustria, il Brasile ci supera nel manifatturiero. Condannati 9 poliziotti, pestarono un giovane a Roma, pugni nel 2010, dopo la partita la vittima dice è stata fatta giustizia. E poi avete sentito che questa sera c'è un test, un amichevole tra Italia e Lussemburgo per gli azzurri in vista della partenza domani per il Brasile. E adesso occupiamoci dunque di questa che vi ho detto ormai è stata già ribattezzata Tangentopoli del Veneto, tangenti per il Mose, cioè questo sistema di dighe mobili a protezione della laguna, 35 in manette. Dopo quindi il caso Expo e molti altri che l'hanno preceduto, arriva uno sviluppo clamoroso nell'inchiesta sugli appalti per il Mose che ha sconvolto questa mattina Venezia. Sarebbero coinvolti imprenditori, manager, soprattutto amministratori e politici di primo piano, come vi ricordavo prima. È così, no? Barbara Ganz del Sole 24 Ore. Ciao Barbara. Ciao, buonasera. Quindi, dicevo, ci sono politici di primo piano, perché questa è un'inchiesta che in realtà parte da lontano, no? Non è una cosa di adesso, Barbara. No, no, questa è la terza ondata di un'inchiesta che è iniziata ormai da anni, dal 2008. Adesso si è arrivati a capire qual era la destinazione di quei fondi neri che erano già stati accertati e che avevano già dato luogo ad altre condanne. Allora, per quanto riguarda il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, eletto nel centrosinistra del PD, ora sarebbe domiciliari se non sbaglio, per fondi illeciti per 110.000 euro, ma anche per aver intascato poi in contanti 450.000 euro, no? Sì, Barbara. Sì, sì, nel suo caso si tratta proprio di finanziamenti illeciti e spiegavano questa mattina che si tratta anche di una consapevolezza di da dove arrivino quei fondi illeciti, perché ci sia questo tipo di reato, per cui lui, secondo gli inquirenti, sapeva. Quindi in che senso? Nella sua campagna elettorale sono stati dati questi finanziamenti? Hanno finanziato, sì, la sua campagna elettorale? Di che anno era? 2010, la campagna per la successione di Cacciari a sindaco di Venezia. Invece per quanto riguarda Galan si parla addirittura, poi sentiremo tra pochissimo il procuratore, si parla addirittura quasi di milioni di euro, lui come uno stipendio annuo praticamente di 1 milione di euro. Sì, perché questa mattina si spiegava che queste dazioni di denaro non erano legate a dei fatti proprio specifici, ma erano quasi una consuetudine legata a una disponibilità generica, per cui le somme erano quasi uno stipendio in questo senso. E nel suo caso addirittura poi si parla di restauri della villa di Cintoganeo, della Barchessa, di tutta una serie di favori eccetera, che poi in 700 pagine di atti riguardano moltissime cose, per esempio assunzioni di figli di funzionari regionali compiacenti. Ecco, quindi questo era quello che riceveva in cambio, i soldi in cambio di sistemazioni, sì, di persone, posti di lavoro. assunzioni, posti di lavoro, chiudere gli occhi di fronte magari alla lentezza dei lavori o ad alcune irregolarità, tutta una serie di illeciti. Io intanto saluto anche, rimani con noi Barbara Ganza, Francesca Zaccariotto, buonasera. Buonasera a voi. Presidente della provincia di Venezia della Lega, prima di sentire Orsoni che cosa diceva qualche tempo fa, vuole fare un commento a caldo, Zaccariotto, come presidente appunto della provincia di Venezia, che cosa ha pensato? È una cosa che lei seguiva da tempo, è stata una sorpresa in questo momento? Ma personalmente è stata una sorpresa, nel senso che i fatti di questo tipo ti lasciano sempre sconcertato, insomma, e quindi io, proprio perché fuori da tutto questo sistema, devo dire che al di là di qualche chiacchiera che si poteva sentire, non mi sarei mai aspettata una burrasca come quella che si è calata su Venezia, sulla regione oggi. Però sapeva Zaccariotto che è un'inchiesta che, come si diceva prima con certo, Barbara Ganza, va avanti da qualche tempo. Certo, certo, infatti questo si era a conoscenza, però la sorpresa in maniera particolare è venuta per quanto riguarda il sindaco Orsoni. Allora sentiamo proprio Orsoni che cosa diceva tempo fa quando lo intervistavano diversi giornalisti su varie tranche di questa inchiesta. Credo si debbano preoccupare gli altri, quelli che vogliono montare delle cose che non esistono. Sindaco, ma più o meno dal Consorzio Venezia Nuova, lei ha avuto contributi? Io dal Consorzio direttamente non credo, anche se di queste cose si è occupato il mio mandatario elettorale. Lei comunque è tranquillo in merito all'inchiesta, intendo? Io sono tranquillissimo, forse c'è qualcun altro che è meno tranquillo e che vuole fare un po' di fumo. Una piccola curiosità, ci sono tanti omissis nella relazione alla Guardia di Finanza, non però sul suo nome. Questo forse può far pensare che bisogna fare qualche fumo per coprire qualcun altro. Ha sentito Francesca Zaccariotto cosa diceva tempo fa? Che si trattava di fumo, niente arrosto, insomma, per fumo negli occhi. Sì, ho sentito, credo che sia una reazione soprattutto forse da parte di chi magari già temeva qualcosa, perché credo che sicuramente lui è un soggetto informato sui fatti e quindi possiamo essere sorpresi noi, ma molto probabilmente lui no. Sentiamo adesso invece il procuratore Nordio che appunto porta avanti questa inchiesta, qual è stata la sua considerazione? Quello che più ha colpito il fatto, e che abbiamo trovato molto grave, è che questi fondi neri, dai quali si attingevano le cosiddette tangenti, non provenissero da utili della società, che già costituirebbe un fatto grave, ma comunque meno grave di quello che è emerso oggi, cioè che questi fondi neri erano stati costituiti attraverso retrocessioni di denari che a loro volta rappresentavano spese non sostenute e che quindi venivano dedotte nelle dichiarazioni di redditi dalle società. Cioè, in poche parole, la società pagava meno tasse perché fingeva di aver sostenuto delle spese e in realtà queste spese non solo non erano state sostenute, ma venivano retrocesse a loro volta alla società stessa, che con quelle pagava le tangenti, però le deduceva dal punto di vista fiscale. Quindi alla fine le tangenti le ha pagate l'erario che non ha incassato questi soldi. Barbara Ganz, poi dicevamo Galan, secondo il procuratore, appunto secondo questa inchiesta, prendeva circa 1 milione di euro all'anno, però lui ha detto mi difenderò a tutto campo, mi ascolti, lo dimostrerò la mia estraneità. Sì, sì, anche il sindaco per la verità ha fatto sapere che insomma i suoi legali hanno detto che è completamente estraneo, per cui adesso sarà sentito chiaramente. Francesca Zaccariotto, ha parlato con Zaia, il presidente della regione, vi siete sentiti? No, non ci siamo sentiti, credo che la giornata di oggi sia stata una giornata che rimarrà nella storia e che ha assolutamente sconcertato un po' tutti, perché sia da un punto di vista umano che da un punto di vista politico che come amministratori, e poi per una realtà come quella di Venezia, che già sta vivendo dei problemi di non poco conto, trovarsi in una situazione di questo tipo lascia tutti assolutamente sconcertati, ecco. Quindi abbiamo ricevuto tutti tantissime telefonate da questa mattina alle 7, c'è stato un tantino, tutti hanno espresso lo stesso stupore, soprattutto quando poi di ora in ora si andavano a definire alcuni dettagli, ecco, e quindi questi insomma costituiscono già a quest'ora per grandi perplessità per tutti. Dopodiché ci sarà la giustizia che farà tutto il suo lavoro, quindi credo che in questo momento noi non dobbiamo fare né gossip né anticipare giudizi che non spettano a noi. Credo che dobbiamo preoccuparci di una realtà che è già messa a dura prova per delle scelte, per dei problemi, per questioni di carattere economico-finanziario come quelle che sta vivendo Venezia, città nel mondo, che si trova oggi nel mondo su fatti di corruzione come questi. Allora sentiamo, visto che non l'ha sentito lei, Zaccariotto, per il momento, vista la giornata convulsa sicuramente, che cosa ha detto il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, al microfono della nostra Valentina Furlanetto. Ne viene fuori, qualora fosse confermato l'impianto accusatorio, una situazione che è a dir poco inquietante. Lei ha rimosso subito l'assessore Chisso? Perché rigore e correttezza vogliono che assieme ai tre dirigenti sospesi vi sia anche l'assessore, e dopodiché avrà modo di chiarire le sue posizioni e i tribunali, uniche sedi deputate, chiariranno la responsabilità. La presunzione di innocenza? Io sono perché le condanne le facciano i tribunali, e è altrettanto vero che già la legge Severino di un anno e mezzo fa prevede questo. Ma lei, da presidente di regione, quella del Mose insomma è una grandissima opera, ha mai avuto sentore di quello che poteva accadere? Ma guardi, sfatiamo un fatto: io ho ereditato una situazione che ha 40 anni di storia, è ormai nella sua fase finale, per cui non ho partecipato ai processi decisionali, tantomeno che alle scelte operative di cantieri o quant'altro. La Lega non è coinvolta, ma soprattutto diciamolo, è che questa vicenda mi vede totalmente estraneo. Francesca Zaccariotto, questo appunto è quello che ha commentato Zaia. Leggo uno dei tanti messaggi che arrivano dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Dice Raff: il tema è un altro, ma com'è che in Italia le grandi opere che restano fondamentali per la nazione si trasformano sempre in una mangiatoia per politici d'ogni schieramento? Ben inteso che sospendere tutto, sai che molti in testa il Movimento 5 Stelle vorrebbe per esempio sospendere l'Expo, lui dice ben inteso che sospendere tutto per evitare questi scandali equivale alla storiella del marito che si taglia il membro per fare un dispetto alla consorte. Dopodiché dice: trovo che sarebbe ora di pensare a un sistema normativo per evitare l'endemico ladrocinio che caratterizza il nostro bel paese. Che ne pensa? Perché appunto le nostre opere pubbliche devono sempre fare un po' questa fine, devono diventare davvero una mangiatoia? Ma intanto io credo che appare evidente che il sistema è corrotto a 360 gradi, perché in questa situazione sono coinvolti non solo i politici ma anche i funzionari, ma anche ex finanzieri, quindi voglio dire è un sistema che non è che abbia un punto fragile in un suo elemento, ma evidentemente è tutto che deve essere rivisto. Dopo, la prima domanda che uno dovrebbe farsi non è tanto individuare nell'opera grande il capo espiatorio di un sistema di corruzione, quanto chiedersi come può essere che un'opera che parte con una spesa, con un valore di un milione di miliardi, diventi poi di 3, di 5, come è il caso del Mose, quindi quadruplicata rispetto alla fase iniziale. E da questo desta sospetto, perché nelle gare d'appalto questo non dovrebbe assolutamente accadere. Quindi chiedersi a distanza di tutti questi anni che cosa è successo mi sembra quasi ridicolo, perché si sapeva già che quando si creava una situazione di quadruplicamento di una spesa, evidentemente o era stato sbagliato qualcosa all'inizio oppure durante il percorso qualcuno aveva fatto male i suoi calcoli, però queste cose non sono state viste, ecco. Quindi io credo che non dobbiamo mettere in discussione le grandi opere, dobbiamo mettere in discussione perché alcune regole che valgono per tutti, per certi non valgono, questo è quello che è accaduto. Dopo possiamo prendercela con la politica, possiamo, perché d'altra parte i politici oggi fanno notizia solo nelle brutte cose e non nelle belle azioni, però dobbiamo anche essere consapevoli che in questa operazione è tutto un sistema del pubblico che sta facendo le spese. Già, Francesca Zaccariotto, ci stiamo per salutare, proprio una risposta in pochi secondi. Lei mi pare che sia tra i papabili candidati per sindaco di Venezia per l'anno prossimo, no? Le elezioni dell'anno prossimo. No, non direi proprio. Il fatto che insomma dei social network esprimano una loro opposizione, va bene. Staremo a vedere, tutti i politici dicono così. E mi dica un'ultimissima cosa in pochissimi secondi, ma è possibile che quando si arriva a certi livelli si hanno tutte queste tentazioni e pochi resistono? Guardi, io credo che dobbiamo smetterla di generalizzare. Io faccio politica, ho fatto il sindaco 10 anni, il presidente 5, non mi sento assolutamente parte di questa situazione. Bene, ecco. Bene. Allora noi le auguriamo buon lavoro, grazie Francesca Zaccariotto. Grazie a voi, buona serata. Grazie a Barbara Ganz. Ciao Barbara, ciao, buon lavoro anche a te. Pausa di riflessione, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per voi o i messaggi al 349-238-6666. A momenti ci troviamo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberta Giordano con voi, stavo leggendo diversi vostri messaggi a di poco insomma indignati rispetto alla frase che abbiamo sentito oggi di Gianfranco Miccichè, dove dice con la sola pensione di parlamentare da 4.000 euro al mese non si può vivere bene. Fra i molti ne prendo uno, per esempio sulla pagina Facebook di Effetto Notte, di Francesco, che dice: prendete esempio dal Movimento 5 Stelle, 2.500 euro netti al mese, il resto nel fondo salva imprese. Questi politici devono vergognarsi, altro che giurare sulla Costituzione. Poi molti altri che non sto a leggere, qualcuno anche abbastanza pesante, ma insomma forse diciamo certe personalità, certe persone, certi personaggi, come li vogliamo chiamare, almeno diciamo così un pochino più di prudenza, ecco, nell'esternare, nel dire certe cose, sapendo insomma che c'è tanta gente che 4.000 euro se li sogna naturalmente di notte, la gran parte probabilmente della gente. Adesso però, prima di parlare del prossimo tema, e parliamo proprio anche di disoccupazione, di imprese che chiudono, insomma di grosse difficoltà che continua la nostra crisi e la crisi italiana, internazionale a provocare, vi ricordo, se avete acceso in questo momento, ricordatevi che inizia alle 21 Effetto Notte, ma io vi voglio ugualmente ricordare le notizie più importanti della giornata. A Tangentopoli a Venezia, arresti eccellenti tra PD e Forza Italia per l'opera pubblica del Mose. La procura parla di fondi neri per 25 milioni di euro. Arrestato il sindaco Orsoni e a Galan milioni come fossero uno stipendio. Allarmi di Confindustria, l'Italia scende all'ottavo posto del manifatturiero, scavalcata anche dal Brasile. Perse in 12 anni 120.000 aziende. La Corte dei Conti boccia gli 80 euro. Sono, dice, un surrogato, serve una riforma. Bruxelles, questa sera è in corso il primo G7 di Renzi e naturalmente è presente anche Obama, che fa sapere all'Ucraina, siamo con voi. In India ancora violenze terribili contro le donne, un'altra ragazza impiccata a un albero, una madre di 5 figli resiste a uno stupro e le sparano in testa. Benzina, lo sciopero il prossimo 18 giugno ci sarà e per 3 giorni niente self-service per il calcio. Poi ci aggiorniamo con questo test che gli azzurri stanno portando avanti con Lussemburgo questa sera e domani volano in Brasile. Diciamo, a proposito di cattive notizie, questo allarme lanciato da Confindustria nella graduatoria dei maggiori paesi produttori, stilata di anno in anno dagli economisti di Confindustria, anche il Brasile sorpassa l'Italia, che arretra dal 7° all'8° posto nella graduatoria dei maggiori paesi produttori. 120.000 sono le fabbriche chiuse tra il 2001 e il 2013, 1.160.000 occupati in meno nell'industria, quindi un quadro impietoso. Sentiamo a questo proposito, è stato oggi ospite di Sebastiano Barisoni a Focus Economia, il direttore del Centro Studi di Confindustria, Luca Paolazzi. Il mondo si è sviluppato di più in alcuni settori, e faccio rapidamente l'elenco di questi settori. Sono l'industria elettronica ha fatto un più 122,7%, i computer e macchinari per ufficio ha fatto più 81,7%, i mezzi di trasporto diversi dall'automotive, quindi diciamo aerei, treni, navi, ha fatto più 72,4%, giusto per citare i top 3. Noi in questi settori siamo andati peggio, per noi diciamo sono L'industria elettronica ha fatto meno 56,1%, i computer macchinari per ufficio hanno fatto meno 99,3%, sono praticamente spariti. Viceversa andiamo bene dove il mondo non va così bene. L'abbigliamento è il terzo settore per performance, sesto settore per performance italiano, segno meno ovviamente perché se la media fa meno 25 è per andare un po' meno peggio, fai meno 18, nel mondo questo è il quart'ultimo posto con un più 17%. E di questo ne parliamo adesso con Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Fabrizio. Ciao, buonasera. Insomma, continuano ad arrivare brutte notizie, diciamo, no? Per quanto riguarda la nostra economia, Fabrizio. Sì, purtroppo è da anni che arrivano solo cattive notizie, sono 7 anni di crisi ininterrotta che ci ha fatto bruciare appunto almeno il 25% della nostra produzione. Se poi lo confrontiamo al resto del mondo che invece cresce proprio in produzione industriale, certo quel dato appare drammatico. Secondo me se siamo ottavi nella classifica mondiale della produzione industriale, tutto sommato non siamo messi ancora così male, eh? In un mondo dove stanno crescendo dei giganti industriali come la Cina, come il Brasile, che il Brasile ci sorpassi da un punto di vista industriale e nella logica del mondo, nella logica della globalizzazione, degli spostamenti grandi di ricchezza che ci sono nel mondo negli ultimi 20 anni. Se noi siamo all'ottavo posto è ancora il segno di un sistema industriale che tiene, però non terrà ancora a lungo se il contesto in cui le imprese si trovano ad operare resta quello di un paese che ha pressione fiscale record, come ci ha detto oggi la Corte dei Conti, certo. Che ha il 30% dei costi di energia in più rispetto agli altri, che ha tutto un sistema, diciamo, che ti fa competere con maggiori difficoltà rispetto ad altri. Quindi tu tutto sommato dici, certo ci sono queste difficoltà, ci sono ancora riforme da fare, però se siamo all'ottavo posto non è proprio il 34esimo, no. Insomma. Io dico che dobbiamo avere consapevolezza del fatto di essere ancora una grande economia, un grande paese industriale. Se siamo gli ottavi nel mondo, ripeto, comunque è un'ottima posizione, però non dobbiamo appunto rinunciare a pensare di poter ancora mantenere queste posizione e adagiarci a una logica di declino e di progressivo declino proprio del sistema industriale. Il dato più preoccupante è quello che in settori chiave della nostra industria noi poi abbiamo perso molte posizioni, il tessile ha perso addirittura il 48%, gli autoveicoli hanno perso il 52%, allora se noi andiamo a vedere che appunto in settori per noi strategici poi arretriamo in maniera molto pericolosa, capiamo che dobbiamo fare evidentemente qualcosa di più a livello di politica industriale, a livello di politica degli investimenti, ma qui poi andiamo sui tanti nodi, diciamo, appunto di questo paese. A proposito di nodi, prima citavi la Corte dei Conti, no? Il rapporto 2014 sulla finanza pubblica, dicendo che appunto gli italiani sono sommersi dalle tasse, ma questa non è una novità, è una cosa che sappiamo per l'appunto da tempo. In più però, nel giorno in cui è saltato l'annunciato allargamento del bonus di 80 euro alle famiglie monoreddito con figli, è arrivata anche la bocciatura da parte della Corte dei Conti rispetto al famoso bonus di 80 euro, perché la Corte dei Conti ha detto l'IRPEF, che questo dall'IRPEF, insomma, da un alleggerimento dell'IRPEF dovrebbero arrivare questi 80 euro, presenta ormai dei limiti specifici e andrebbe riformata, dice la Corte dei Conti, per garantire un'effettiva progressività e ridistribuzione di questa imposta, insomma, no? E quindi dice è un surrogato 80 euro, dopo la bocciatura anche dei tecnici del Senato contro questa iniziativa di Renzi, anche la Corte dei Conti alla fine dice, ma insomma... Diciamo che alcuni grandi dirigenti e grandi magistrature dello Stato non sono teneri, con Renzi e col suo governo, ma insomma le bacchettature non gliele risparmiano. L'abbiamo detto dall'inizio però che l'intervento di 80 euro rischiava di essere un intervento estemporaneo che poi non aveva quell'impatto sulla crescita che invece un intervento fiscale dovrebbe avere. Abbiamo spinto come Sole 24 Ore per intervenire sull'IRAP, non perché fosse una misura a favore delle imprese, forse anche questo, ma insomma perché tutte le analisi dei centri studi evidenziavano che intervenire riducendo la tassazione sulle imprese produceva un effetto sul PIL maggiore rispetto all'intervento sull'IRPEF, in particolare con l'intervento degli 80 euro. Del resto, fammelo dire, lo stesso governo nelle sue previsioni di accompagnamento al decreto aveva stimato questo intervento come impatto sul PIL per un paio di decimali, non di più, per cui lo stesso governo in qualche modo registrava e evidenziava che poi in termini di crescita non ci sarebbe stata una spinta particolarmente forte. E a proposito di bacchettate a Renzi, adesso vedo che al G7 Obama scherza con lui e dice: ti è spuntato qualche capello bianco. Ne avrà qualcuno di più probabilmente prossimamente, no? Fabrizio Forchi. Sì, appunto, perché come dire, il 40% degli elettori ti danno sicuramente una spinta molto forte e un entusiasmo a fare. Però poi se vedi insomma la realtà che hai di fronte e le difficoltà che devi affrontare, indubbiamente i capelli bianchi spuntano. Insomma, staremo a vedere, osserveremo la capigliatura di Renzi con molta attenzione per capire come metro anche per come sta andando il nostro paese. Intanto grazie Fabrizio Forché e buona continuazione. Ciao Fabrizio. Ci sono ancora gli aggiornamenti per chi viaggia e sempre per voi la pagina Facebook di Effetto Notte e sempre anche per i vostri commenti gli sms al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ringrazio Fabio per il bel messaggio fra i molti e poi vi ricordo adesso quali sono state le notizie, molti di voi ormai le avranno memorizzate bene, però dopo ogni pausa, insomma, così funziona, che vi ricordo un po' una sintesi della giornata e tra poco parleremo anche di Bruxelles, di cosa sta succedendo. Intanto la Tangentopoli per il Mose, vi dicevo 35 arresti, terremoto a Venezia, domiciliari per il sindaco Orsoni e chieste le manette per Galan. Poi c'è l'allarme della Corte dei Conti, abbiamo ricordato poc'anzi, italiani sommersi dal fisco, salta il bonus per le famiglie e per la Corte dei Conti gli 80 euro sono soltanto un surrogato di riforme invece necessarie. Obama con l'Ucraina, dice siamo con l'Ucraina, la libertà in Europa non è scontata, parla così dal G7 che è anche il primo G7 per Renzi. Il bollettino di guerra di cui parlavamo prima, di Confindustria, con il Brasile, anche il Brasile che ci supera, siamo ottavi come produttori nel mondo. Condannati 9 poliziotti, pestarono un giovane a Roma nel 2010 a pugni dopo la partita, la vittima dice oggi è stata fatta giustizia. A Pompei ruba pezzi di mosaico, arrestato un turista georgiano, aveva staccato 3 tessere dalla Domus di Trittolemo. E poi vediamo se ci sono aggiornamenti sulla partita dell'Italia contro Lussemburgo, questa amichevole, vediamo se si vede ancora 1-0 per l'Italia, sì, confermato. E adesso parliamo di Bruxelles. Europa 24 notte. Caro Sergio Nava. Ciao Roberta. Ciao Sergio, allora stavo prima dicendo che al G7 Obama sta scherzando, insomma c'è un clima evidentemente abbastanza goliardico, Obama scherzava con Renzi dicendo ti è spuntato qualche capello bianco, perché sai che anche Obama da quando è diventato presidente insomma si è un po' imbiancato. Beh, no? Per dire... è abbastanza celebre la cosa su Obama, tutti ricordiamo nel 2008 i suoi capelli neri, dopo pochi anni con la rielezione tutti notarono invece che i capelli erano diventati bianchi, evidentemente ora lui lo nota anche sugli altri leader. Perché il potere in bianca, possiamo dire così. O ingrigisce. Ecco, appunto, che sono due cose un po' diverse. Ingrigisce un po' triste, potrebbe anche essere questo, dipende dalle persone. Però oggi c'è stato il debutto di Renzi, appunto, questa sera al G7, dove c'è anche Obama, dove ci sono i grandi della terra. Ma diciamo che Renzi probabilmente era lì per soprattutto portare una relazione sull'energia, sulle nuove strategie per il gas, vista la crisi ucraina, per le energie rinnovabili. Mi sembra che più che energie rinnovabili parlerà di acque veneziane. Che cosa sai, che cosa è stato detto finora, se Renzi ha fatto allora, una dichiarazione? Renzi è arrivato relativamente tardi, anche perché il vertice, il summit del G7 è iniziato intorno alle 19.30, lui è arrivato alle 19.20, non ha rilasciato dichiarazioni all'inizio, all'arrivo, anche perché c'erano misure di sicurezza molto molto più rigide in questa occasione rispetto ai normali consigli europei, anche perché questo G7 si sta svolgendo nello stesso edificio che ospita normalmente i consigli europei. Diciamo che quel poco che è filtrato, proprio perché il vertice è iniziato da 2 ore e mezza sostanzialmente, dice che, almeno per quanto riguarda Renzi, è intervenuto nella cena degli otto leader dei sette leader, scusate, sulla Libia, osservando come la situazione sia critica ma non irreversibile e sottolineando anche l'importanza di ridare energia al processo politico libico di riconciliazione nazionale. Devo dire, è andato un po' fuori tema, anche perché il programma ufficiale della cena serale prevede la discussione sull'Ucraina e sulla crisi che ha riguardato poi tutto l'Est Europa. Questo è il poco che al momento è uscito dal summit. C'è un altro aspetto rilevante, no? Tieri, appunto, un po' avevi avuto un lapsus, tu hai detto il G8 e il G7 perché per la prima volta manca la Russia, punita, diciamo così, esclusa per quello che sta succedendo dalla Crimea in poi in Ucraina, no? Sì, infatti devo dire il lapsus è venuto da sé, anche perché ci eravamo ormai abituati da più di 15 anni a definirlo G8 ed è la prima volta dal 98 che la Russia non partecipa. Ed il presidente europeo Van Rompuy oggi nella preconferenza stampa del summit ha detto è una sospensione temporanea, se la Russia tornerà ad adeguarsi agli standard internazionali sarà riammessa. Bisogna anche dire che un po', se vogliamo, anche l'ipocrisia che c'è anche a volte nella diplomazia internazionale porterà poi domani e dopodomani a degli incontri bilaterali degli stessi leader del G7 con Putin, perché andranno tutti alle commemorazioni dello sbarco in Normandia e ci sarà anche Vladimir Putin, e sono già stati programmati dei bilaterali con la Merkel, con Hollande, con Cameron, quindi comunque Putin non è stato del tutto escluso. Tra l'altro ha aperto anche stasera al nuovo presidente ucraino Poroshenko dicendo sono anche disponibile a incontrarlo. Quindi si cerca in qualche modo una distensione, quanto sia realistica è difficile dirlo. Certo, e poi bisogna sempre tenere in conto non solo che è bene mantenere buoni rapporti, persino tra condomini, figuriamoci, no, tra stati, e poi c'è sempre anche la questione dell'energia, del gas, adesso non per niente Renzi, appunto, la relazione che doveva portare sulle energie rinnovabili alternative era proprio per cercare di arginare questo problema, no, creato con la crisi ucraina. È un problema molto grosso, anche perché nelle ultime settimane c'era stato appunto anche l'allarme se dovessero esserci problemi nel passaggio di gas dall'Ucraina il prossimo autunno, il prossimo inverno, l'Europa sarebbe seriamente a rischio, l'aveva detto il commissario europeo all'energia Oettinger. C'è anche da dire che negli ultimi giorni appunto Gazprom ha dilazionato una scadenza verso l'Ucraina. In qualche modo si sta cercando di riannodare i fili del discorso. È anche vero che l'Europa deve trovare delle fonti di approvvigionamento alternative, c'era anche l'ipotesi di aprire dei canali con l'America, col gas di scisto, se ne era parlato, se ricordo bene, in un recente vertice a marzo, proprio tra i sette grandi. Però è qualcosa che richiede anni, quindi comunque è un problema che l'Europa deve affrontare e presto, perché chiaramente qualsiasi crisi internazionale espone il continente e anche l'Italia, che è fortemente dipendente dalle importazioni di energia, espone appunto il continente a dei rischi economici e geopolitici, possiamo dire. Quindi sicuramente tecnicamente l'energia è in programma domani, però è comunque un tema nel menù del vertice, però è comunque un tema che si lega strettamente alla crisi ucraina, su questo non c'è alcun dubbio. Andranno avanti fino a tardi, si faranno i nottambuli? Difficile dirlo. Penso che comunque qualcosa uscirà entro la mezzanotte, anche per poter dare in passo ai giornalisti qualche notizia, e anche perché poi il vertice comunque prosegue anche domani mattina e le vere e proprie conferenze stampa saranno domani nel primo pomeriggio. Il piatto forte è sicuramente stasera, domani parleranno comunque anche di temi interessanti, l'economia in primis, su come stimolare la crescita, cioè creare posti di lavoro, far ripartire l'economia a livello globale, quindi anche domani mattina i temi saranno interessanti, ci sarà l'energia, la lotta al cambio climatico. Questi grandi vertici normalmente non portano a conclusioni eclatanti. Infatti, proprio perché sono più dei tavoli di discussione. Forse sull'Ucraina qualcosa però uscirà, la prima bozza di conclusione dice che sostanzialmente si dice la Russia ritiri le truppe al confine, la smetta di appoggiare i separatisti filorussi. Se questo non avviene, le sanzioni, l'ipotesi di sanzioni resta sul tavolo, la minaccia resta, però rispetto a un mese, due mesi fa, la situazione si è un po' più calmata. Un pochino più distesa, sì. Ma staremo a vedere. Staremo a vedere. Grazie Sergio Nava. Grazie a voi. Ciao Sergio. Ciao. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E vogliamo capire adesso che combina l'Italia nell'amichevole con Lussemburgo, con il nostro Carlo Genta, che trovate tutti i giorni alle 14 con tutti i convocati. Ora ti convoco, Carlo, raccontaci così in sintesi come è andata finora. Ma guarda, siamo al punto di prima, cioè 1-0 per l'Italia, è finito primo tempo, è iniziato il secondo, giocano da 5 minuti, siamo sempre alle prove tecniche di trasmissione, adesso rispetto a prima la fatica comincia a farsi sentire ancora di più, quindi prima ti ho detto mi sembrano un po' imballati dalla preparazione, quindi adesso maggior ragione, più passano i minuti, più l'Italia ha qualche difficoltà anche di tenuta fisica, ripeto, è un amichevole e in questa partita si tratta soprattutto di sperimentare quel centrocampo nuovo con Verratti, che tra l'altro mi sembra così, a occhio nei primi 50 minuti il migliore dell'Italia. Ripeto, giochiamo con una punta sola che è Balotelli, l'avversario non è un granché, ma il risultato questa sera conta fino a un certo punto, conta invece probabilmente mettere esperienze, mettere chilometri di gioco, metaforici chilometri di gioco nelle gambe di questa squadra, che potrebbe essere anche la prima nazionale del mondiale, cioè quella che affronterà l'Inghilterra. Quindi sai, non è che c'è, si tratta soltanto di piccole valutazioni dei singoli. Possiamo dire che Verratti sta giocando bene, che sta cercando la sua posizione vicino a Pirlo, che l'Italia comunque dietro non ha mai corso alcun pericolo, alcun rischio, anche perché l'avversario non è di quelli che ti possono far correre i brividi. Prendiamo queste piccole risultanze così come sono, mentre ora il Lussemburgo ci prova, Buffon para senza problemi. L'Italia mi sembra abbia bisogno a questo punto di qualche cambio, perché comincia ad esserci qualche giocatore piuttosto legnoso. Va bene, lasciamo i legnosi a finire questa partita. Grazie Carlo Genta. Ciao Carlo, tanto è una prova così libera, diciamo. Noi ci sentiamo tra pochi istanti.